Hadith numero 7 da Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dariy, che Allah si compiaccia di lui. È stato trasmesso che il profeta disse: l'Islam è la lealtà. Dicemmo: verso chi? Disse: verso Allah e il suo libro, verso il suo apostolo, verso gli imam dei musulmani e verso la loro comunità. Riferito da Muslim.